Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un augurio di una buona serata. Ci ritroviamo attorno alla parola di Dio, come ogni terzo lunedì del mese, preparandoci a iniziare in questo lunedì un percorso nuovo. Lo scorso mese abbiamo terminato il nostro commento, la nostra riflessione sul Vangelo di Marco e questa sera, sullo sfondo della memoria liturgica della dedicazione delle basiliche di Pietro e Paolo, iniziamo un percorso sugli Atti degli Apostoli. Ritengo questa coincidenza una coincidenza provvidenziale, perché proprio il 18 novembre, giorno della dedicazione delle basiliche che ricordano i due pilastri della storia della Chiesa, noi iniziamo il percorso su quell'opera che in fondo è dedicata a loro. Gli Atti degli Apostoli infatti si soffermano proprio su Pietro e Paolo, dedicando al primo i primi 15 capitoli, la prima metà del libro, e al secondo sostanzialmente la seconda metà del libro degli Atti. Teniamo presente un pochino gli obiettivi che sempre ci diamo quando apriamo la nostra trasmissione. Il primo obiettivo, che è quello che ritengo sempre il più importante di tutti, è chiedere allo Spirito di aiutarci a far sì che la parola non illumini solo la nostra mente, ma scaldi il cuore, scaldi la vita, sostenga quel percorso di fede che personalmente, come comunità, ognuno sta cercando di fare. Il secondo obiettivo è quello di scavare dietro le parole, perché la Bibbia ovviamente ci consegna una traduzione del testo antico, del testo biblico antico, ma a volte dietro i termini si nascondono delle sfumature, delle densità, delle preziosità che una traduzione da sola non riesce a rendere. Ecco allora l'importanza di una mediazione che ci aiuta a capire bene il significato delle parole. Terzo obiettivo è quello di ascoltarci vicendevolmente. In ogni nostra puntata, voi sapete, è importante la parte del relatore, che è quella che faccio io nei primi 45 minuti, ma è anche molto importante la parte che fa ciascuno di voi. Quindi le vostre domande, i vostri interventi sono preziosi perché ci aiutano a cogliere delle sfumature, degli aspetti del testo che altrimenti andrebbero smarriti. Bene. Questa sera noi ci soffermiamo sulla pagina iniziale degli Atti degli Apostoli. Come in ogni opera letteraria, la pagina iniziale è importante. Perché è importante? Perché già contiene in nuce, in sintesi, gli argomenti che saranno poi sviluppati dall'autore sacro lungo la sua opera. Ecco, gli Atti degli Apostoli è un'opera molto lunga, si parla di oltre 20 capitoli, per la precisione sono 28 i capitoli degli Atti degli Apostoli. Bene, la pagina iniziale, i primi 11 versetti, che sono quelli a cui noi ci dedicheremo insieme questa sera, sono quelli che ci danno lo squarcio sull'intera opera. Quando una persona va al cinema, gli esperti di cinema ci dicono che i primi istanti dell'opera cinematografica contengono già in sintesi il contenuto dell'intera trama. Lo stesso vale per i testi biblici, soprattutto quando hanno uno stile narrativo molto curato dal loro autore. E Luca ci avverte fin dall'inizio della sua opera, che è composta di Vangelo e Atti, all'inizio del Vangelo ci dice bene che la sua opera non è stata scritta di getto, non è il frutto di una raccolta semplicistica di dati o di date, ma è frutto di un lavoro di ricerca molto accurato che viene poi ruminato dall'autore sacro e trasformato in un resoconto ordinato, in modo che il teofilo, cioè l'amico di Dio, il credente, possa essere in grado di recepire il contenuto in modo che questo contenuto illumini proprio il suo discepolato. Chiediamo quindi allo Spirito Santo di illuminare questo nostro momento di approfondimento e di studio, aiutandoci ognuno dove si trova in questo momento, chi in viaggio, chi a casa in ascolto, chi attorno a una tavola, chi in un letto perché è malato o impossibilitato a muoversi, in modo che illumini ciascuno perché ciascuno possa trarre tesoro, possa trarre beneficio dalla lettura di questo testo. Invito chi è nella possibilità di prendere un'edizione della Bibbia e di aprirlo proprio sul capitolo primo degli Atti degli Apostoli. Tra le premesse tengo a fare un'ulteriore premessa. Quando noi leggiamo i testi biblici, dobbiamo tenere presente che i testi biblici, quando narrano gli episodi, li narrano in una prospettiva, che è la prospettiva dell'autore. Gli Atti degli Apostoli ci pongono a confronto con gli inizi della comunità cristiana e quindi ci portano alla radice della nostra identità, delle nostre comunità. Però lo fanno mettendoci nella prospettiva di un autore, quindi è una linea prospettica. In questo caso la linea prospettica è quella di Luca. Per avere un quadro completo degli inizi della comunità cristiana, noi dovremmo avere la possibilità di ampliare questa linea prospettica con altri testi. Mi spiego e faccio degli esempi concreti. Negli Atti degli Apostoli Luca ci parla sia di Paolo che di Pietro. Però noi non possiamo basarci solo su Luca per ricostruire qual è la vita di Paolo. Noi, per capire chi è realmente l'Apostolo Paolo, oltre agli Atti degli Apostoli raccontati da Luca, possiamo attingere alle lettere che Paolo stesso scrive, ce ne sono ben 13 nel Nuovo Testamento. E anche qua non bastano nemmeno solo le lettere di Paolo, sarebbe interessante per conoscere questo Apostolo leggere anche quei testi che sono stati redatti dagli oppositori a Paolo, che in qualche modo la letteratura del periodo patristico e dei primi secoli cristiani un pochino ci consegna. Quindi l'abilità di ricostruire quelli che sono gli inizi della prima comunità cristiana, quelle che è un pochino il tessuto in cui la comunità cristiana acquisisce la propria identità, ha sempre bisogno di tenere presente queste fonti. La fonte biblica in senso stretto, di prima mano, quando sono gli scritti di Paolo, di Pietro, di seconda mano, quando sono gli scritti di qualche discepolo che è stato vicino ai grandi apostoli, pensiamo a Luca in questo caso, ma è anche il caso di Marco, ad esempio, e poi questi scritti che magari sono opposti alle figure dei grandi protagonisti della comunità cristiana, ma che nella loro critica alla comunità cristiana ci permettono di cogliere gli elementi che della comunità cristiana davano maggiormente fastidio. E allora vedete, anche a volte i testi degli oppositori sono preziosi per ricostruire quella che è la storia delle origini. Ma detto questo, entriamo subito nel testo. E la prima parte, il primo commento lo vorrei fare ai primi tre versetti degli Atti degli Apostoli, perché questi primi tre versetti ci dicono le fondamenta su cui la prima comunità cristiana deve edificarsi, così come questo è vivo, è presente nel pensiero di Luca. Allora ascoltiamo questi primi tre versetti. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Bene, questi tre versetti che sembrano versetti redazionali, innocui, effettivamente contengono già i tre fondamenti su cui si regge la comunità cristiana delle origini. Dopo aver fatto un po' il legame con l'opera precedente, cioè con il Vangelo che Luca ha appena narrato, l'Evangelista si sofferma su questi tre pilastri. Quali sono i tre pilastri? Il primo pilastro è l'esperienza del mistero pasquale. Dice Luca, egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Cioè, se nel Vangelo Luca si è soffermato su tutto quello che Gesù fece ed insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, ora qui tiene a sottolineare, a mettere al centro della vicenda di Gesù la sua passione, morte e risurrezione con l'esperienza delle apparizioni. L'esperienza delle apparizioni che rappresenta per gli apostoli esperienza del mistero pasquale di Cristo, contatto vivo con Lui, è uno dei fondamenti su cui si regge la comunità cristiana. E, precisa Luca, questo è avvenuto con molte prove. Il testo greco dice en polois tekmerios, cioè con qualcosa che non è solo una prova tangibile, ma è qualcosa che non, un'evidenza che non può essere negata, un fatto verificabile a cui bisogna dare credito. Non si tratta di una base equivoca, non è la pura testimonianza orale che può venire dalla voce di qualcuno che è stato con Gesù, no. Quelle apparizioni sono delle prove inconfutabili, che implicano una prova inequivocabile da parte di chi vi assiste. Quindi la prima base è l'esperienza di un Gesù che passa attraverso il mistero della passione e della morte e viene sperimentato vivo, e ce ne sono molte prove di questo. Solo su questa base la comunità cristiana può edificarsi, può costruirsi. In altre parole, Luca ci sta dicendo che al centro di ogni comunità cristiana sta il Cristo che ha sofferto ed è morto per amore e ha vinto la morte con la sua risurrezione. Al centro c'è il credo. Avrà modo Luca di ribadirlo durante il suo racconto. Secondo punto, secondo aspetto, su cui si regge la comunità cristiana, il secondo pilastro. Il secondo pilastro sono i 40 giorni, perché lui dice, si mostrò ad essi vivo con molte prove durante 40 giorni. In altre parole, Luca ci sta dicendo che dopo la risurrezione Gesù sta con i suoi discepoli ancora 40 giorni. Alcuni si sono interrogati fortemente su questo numero, perché sembra che colui che racconta gli Atti degli Apostoli e che vuole stabilire un legame con il Vangelo, perché è lo stesso narratore, entri in contraddizione. Se voi andate a vedere la finale del Vangelo di Luca, nella finale del Vangelo di Luca l'Evangelista dice che Gesù ascende al cielo lo stesso giorno della risurrezione. Com'è che qui, all'inizio degli Atti degli Apostoli, quindi poco dopo aver deposto, come dire, la penna per un attimo nello scrivere il Vangelo, poco dopo dice che Gesù sta 40 giorni con i suoi discepoli? Come mai c'è questa contraddizione? È una contraddizione oppure no? Ecco, dietro questi 40 giorni c'è un messaggio teologico, cioè quello che è importante è tenere presente che Luca non ci sta raccontando, non ha un obiettivo, come dire, cronachistico da trasmettere, ma ci vuole trasmettere un messaggio teologico. Dietro quello stare di Gesù con i discepoli per altri 40 giorni sta l'esperienza dei grandi uomini di Dio, soprattutto di due uomini di Dio che hanno vissuto l'esperienza dei 40 giorni. E questi due uomini di Dio che hanno vissuto l'esperienza dei 40 giorni sono i due grandi patriarchi della storia salvifica, vale a dire Mosè ed Elia. Se noi andiamo a sfogliare le pagine dell'Antico Testamento, notiamo che Mosè fa l'esperienza dei 40 giorni, al capitolo 9 del libro del Deuteronomio e insieme a lui lo fa l'intero popolo di Israele. Cosa succede nell'esperienza dei 40 giorni di Mosè? L'esperienza dei 40 giorni di Mosè è il momento in cui Mosè si prepara a ricevere il dono della Torah, il dono della legge. E quando riceve questo dono della legge, scende presso il popolo che è accampato ai piedi del monte Sinai, si ritrova con la sorpresa che il popolo nel frattempo ha cercato di dare un volto a Dio e gli ha dato il volto che era in uso nella cultura del tempo, nella cultura cananaica, il volto di Baal, il volto di un toro, di un torello, cioè il simbolo della potenza. E questo fa adirare non solo Dio, ma anche Mosè, che manda in briciole questo simulacro di Dio, e poi obbliga alla penitenza tutto il popolo. E lì Mosè sarà obbligato a risalire nuovamente sulla montagna per altri 40 giorni e 40 notti, per impetrare il perdono per il popolo e ricevere le nuove tavole, visto che le prime le ha infrante nel dolore di fronte all'idolatria del popolo. Secondo profeta che vive l'esperienza dei 40 giorni è Elia. Anche per Elia avviene qualcosa di simile. Elia, dopo il famoso sacrificio del Carmelo, dove vengono uccisi tutti i profeti di Baal, vedendo che non riesce a convincere con la sua messa in scena la regina Jezabele e il re Acab, si mette in fuga. Inizialmente vorrebbe morire perché vede che non ha avuto alcun successo sui suoi destinatari precisi. Dopo però viene risvegliato dall'angelo, nutrito dall'angelo e inviato con la forza di un pane che l'angelo gli ha dato, inviato per 40 giorni e 40 notti a camminare verso l'Oreb. Arrivato all'Oreb riceve la rivelazione di Dio nel silenzio e Dio lo rimanda da dove è venuto, quindi ancora un cammino di 40 giorni e 40 notti. In altre parole, quel numero 40 richiama un'esperienza che coinvolge l'uomo di Dio, ma anche il popolo, e che viene duplicata due volte. Cioè il numero 40 viene, l'esperienza dei 40 giorni viene vissuta due volte da Mosè, due volte da Elia, e dietro questa esperienza c'è un cammino di cambiamento, un cammino di conversione. Perché mi sono soffermato su questo? Perché quando noi andiamo a vedere i pilastri della Chiesa delle origini, nei suoi due protagonisti, Pietro e Paolo, notiamo che anche per questi protagonisti Dio ha preparato l'esperienza dei 40 giorni, cioè il loro incontro con il risorto, il primo a Gerusalemme, l'altro a Damasco, non sarà sufficiente. Questi uomini di Dio, su cui si regge poi l'esperienza cristiana, sono loro, le due colonne del cristianesimo, sono uomini che si sono lasciati profondamente trasformare dall'esperienza di Dio e per i quali l'esperienza di Dio non è stato qualcosa di automatico, di immediato. Hanno dovuto anche loro fare un cammino di conversione. Non è bastato l'incontro con il risorto. L'incontro con il risorto è stato l'inizio, è un po' stato come il dono della legge sul Monte Sinai o l'esperienza di Elia nel silenzio di Dio all'Oreb. Ma dopo queste due esperienze è necessario ancora un cammino di altri 40 giorni per arrivare a quello che Dio voleva da loro. In altre parole, cosa ci sta dicendo Luca? Ci sta dicendo che al centro dell'esperienza cristiana, accanto a quello che è il contatto col mistero pasquale, sta l'esperienza della conversione. E i primi ad essere i convertiti per eccellenza sono le due colonne, sono Pietro e Paolo, che saranno i protagonisti del racconto degli Atti degli Apostoli. E arriviamo al terzo pilastro, quindi il primo pilastro, l'esperienza del mistero pasquale, il secondo pilastro, l'esperienza dei 40 giorni, con tutto quello che questi 40 giorni evocano, il terzo pilastro, dice il testo, apparendo loro e parlando delle cose che riguardavano il regno di Dio. Ecco, il terzo pilastro della comunità delle origini è l'esperienza del regno. Ora, noi sappiamo che il concetto del regno di Dio è un concetto chiave in tutti i Vangeli. Pensate, nel solo Vangelo di Luca tale argomento ricorre ben 46 volte. Noi dobbiamo stare attenti, perché quando sentiamo l'espressione Regno di Dio viene subito in testa l'immagine di qualcosa recato alla monarchia. Ora, nel linguaggio biblico il Regno di Dio è qualcosa di molto diverso, cioè significa entrare in una logica che è totalmente altra. La regalità Cristo la manifesta durante il suo ministero pubblico nel momento della croce. È lì che è tutta la fase del processo e del cammino verso il Golgota viene, come dire, narrato dagli evangelisti come se fosse in atto una vera e propria incoronazione regale. Certo, in modo ironico, è una farsa quella che i soldati stanno facendo, però la linea nascosta della narrazione ci sta dicendo che nella logica di Dio qui passa quella che è l'incoronazione regale. Il regno dell'umiltà, il regno dell'accoglienza, il regno del perdono, sono tutti quegli elementi che costituiscono le pietre miliari del regno di Dio su cui si regge l'esperienza cristiana. Ora, cosa ci dicono questi tre punti chiave messi in rilievo da Luca nei primi tre versetti degli Atti degli Apostoli? Ci indicano quelle tre fondamenta su cui va edificandosi la prima comunità cristiana. Il primo, prima di tutto, la presenza viva e operante del Signore risorto nella giovane comunità. In secondo luogo, la progressiva illuminazione dei discepoli da parte dello Spirito Santo che riceveranno in dono. Lo Spirito Santo non dà la conoscenza infusa ai discepoli, ma li mette in una condizione di conversione continua necessaria a quel cammino di discepolato a cui loro hanno aderito. E infine, terzo elemento, al centro della comunità cristiana stanno quella logica del regno che si declina nell'umiltà, nell'accoglienza, nella capacità di perdono, nella povertà assoluta, nell'abbandono alla provvidenza e in quei tanti, tanti valori che Gesù ha avuto modo di presentare durante il ministero pubblico. Ecco, dopo questi tre versetti Gesù prende congedo dai suoi e c'è un interessante dialogo tra Gesù e i suoi, ma prima di commentare i versetti successivi a questo testo facciamo un breve stacco musicale, dopodiché continueremo nella nostra riflessione. Vi suggerisco nel frattempo anche di rileggere questi tre versetti in modo da interiorizzare quanto abbiamo detto fino adesso. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché riprenderemo il nostro commento. Ecco, dopo aver enucleato, delineato quei tre pilastri con cui Luca inizia il suo racconto, gli Atti degli Apostoli ci presentano questo dialogo tra Gesù e i suoi. Ascoltiamolo, sono i versetti da 4 a 11. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse i loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Ecco, ci fermiamo qui. Notiamo che la prima scena che dopo quei versetti redazionali lo scrittore sacro racconta ha una cornice ben precisa. La cornice della prima scena è mentre si trovava a tavola con essi. Questo è il luogo dell'ultimo insegnamento di Gesù prima di ascendere al cielo. E allora capite bene che è interessante, l'opera dedicata alla comunità cristiana trova il suo luogo per eccellenza dove? Nell'Eucaristia. Quello stare alla stessa mensa che diventa il luogo della memoria, il luogo in cui si vivono praticamente quei pilastri, è il luogo del testamento massimo di Gesù. Non solo c'è lo stare a mensa, mentre si trovava a tavola con essi, cosa Gesù fa? Il testo dice: ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme. Questo è tipicamente lucano. Se voi andate a vedere gli altri Vangeli, vedete che Gesù proprio non chiede ai suoi di rimanere a Gerusalemme, anzi gli dice: coraggio, uscite, andate in Galilea, là mi vedrete. Invece no, Luca tiene a sottolineare l'importanza di Gerusalemme, perché per Luca Gerusalemme non è solo un luogo geografico, è un luogo altamente teologico. Luca apre il racconto a Gerusalemme nel Tempio, ricordate la scena dell'annuncio di Gabriele a Zaccaria, chiude il racconto a Gerusalemme con il ritorno nella città dei due famosi discepoli, ricordate i discepoli di Emmaus, ecco, nella pagina conclusiva del Vangelo di Luca la scena è quella di due persone che rischiano di allontanarsi dalla città che è il luogo teologico per eccellenza, perché è il luogo dell'identità, è il luogo della memoria, è il luogo del mistero pasquale, è il luogo dove ci stanno quei fondamenti che Luca ha appena enunciato. Ed ora nel presentare il saluto tra Gesù e i suoi, Gesù li invita a non allontanarsi da Gerusalemme, dal luogo dell'identità. E poi c'è questo scambio, questo dialogo tra Gesù e i suoi, un dialogo che è legato proprio al dono dello Spirito Santo. Ed è interessante soffermarsi sulla domanda che i discepoli fanno a Gesù, perché in questa domanda ci sono quattro errori che Gesù corregge immediatamente. E quattro errori che fanno sorridere, perché se dopo 3 anni di ministero pubblico, oltre a questi 3 anni ci sono stati ancora 40 giorni dopo la risurrezione di insegnamento privilegiato da parte di Gesù e i suoi discepoli, ebbene, dopo tutto questo tempo, se i discepoli ancora non hanno capito, ci sarebbe da scoraggiarsi. E invece no, Gesù si fida di loro, sa che lo Spirito Santo porterà a compimento quello che è stato l'insegnamento che lui ha concesso a loro. Nello stesso tempo ci dice che i 40 giorni non sono sufficienti, come non erano stati sufficienti per il popolo di Israele, per Mosè, per Elia. È necessario un altro periodo, sono necessari altri 40 giorni, un altro periodo di approfondimento del mistero. E questo ulteriore periodo di approfondimento è assicurato dal dono dello Spirito Santo. Prima dicevo che la domanda dei discepoli contiene 4 errori. Allora andiamo a scovarli insieme. Quali sono questi 4 errori che caratterizzano la domanda dei discepoli? In fondo vedremo, sono 4 errori che noi facciamo ogni giorno nel valutare le cose. Allora, la domanda dei discepoli è: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Primo errore, Signore, è questo il tempo. Il termine utilizzato in greco è chronos, indica il tempo materiale, il tempo misurabile, il tempo calcolabile, il tempo fatto di secondi, minuti, ore, giorni. Gesù risponde dicendo: non spetta a voi conoscere tempi o momenti. Perché c'è questa precisazione? In greco il termine utilizzato non è solo chronos, tradotto con tempi, ma anche kairos, momenti. Cioè, Gesù nella sua risposta corregge la prospettiva dei discepoli. Per i discepoli guardano la storia come se la storia fosse una sequenza di secondi, di minuti, di ore. L'abbiamo sentito anche ieri nella liturgia della domenica, dove i discepoli si preoccupano perché vogliono sapere quando succederanno quelle cose, quando sarà la fine del mondo. Sono preoccupati di un termine cronologico. E Gesù corregge questa prospettiva e dice: non è solo questione di cronos, è questione di kairos. Kairos è il tempo opportuno, il tempo della grazia. Cioè, dal momento in cui Gesù è morto e risorto, il tempo umano non è più solo una sequenza di secondi, minuti, ore, giorni, anni. È un tempo di grazia. Quindi bisogna mettersi in un'ottica diversa, perché quel tempo abitato dal mistero dell'incarnazione di Cristo è uno spazio condiviso con Gesù. E allora se è qualcosa di vissuto con il Signore, non è più solo una sequenza di minuti o di ore, ma è qualcosa che è premio di un mistero. E quindi non si tratta solo di sapere, di calcolare minuti, ore, di calcolare il presente o il futuro. Si tratta di vivere la storia insieme al mistero della grazia. Quindi questo è il primo errore. Ce n'è però subito un secondo che è molto grave. Perché i discepoli dicono: Signore, è questo il tempo nel quale tu ricostruirai. Ecco, questo tu nel cuore del maestro di Gesù è pesante, deve essere pesante come un macigno. Perché Gesù corregge subito questa prospettiva. Al tu che gli dicono i discepoli, lui ribadisce, reagisce sostituendo il voi. Egli rispose: non aspetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma voi riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e voi mi sarete testimoni. Cioè, quello che Gesù sta dicendo ai suoi è che è ormai tempo di aspettarsi, è ormai tempo di finirla di aspettarsi tutto dall'alto, come se tutto debba piovere in modo automatico dal cielo. Gesù risorto vive in mezzo ai suoi attraverso lo Spirito, e quindi questo Spirito obbliga i discepoli a rimboccarsi le maniche, ad essere loro ad interagire con il mondo. È lo stesso messaggio proprio del Vangelo di ieri. Ai discepoli che volevano sapere quando, Gesù li mette davanti al presente e gli dice: bene, ci sono carestie, pestilenze, non è il tempo di preoccuparsi del quando, rimboccatevi le maniche perché chi soffre soffra di meno. Ci sono guerre, rumori di guerre, non preoccupatevi del quanto siate costruttori di pace. Ci sono falsi cristi, falsi messie, non spendete parole inutili. Chiedete il dono del discernimento per discernere oggi chi è il falso e chi è il... Lo stesso avviene qui. Ai discepoli che ancora hanno la tentazione di delegare a Gesù, e Gesù dice: no, lo Spirito che è in voi vi rende corresponsabili della storia della salvezza. Gesù ha inaugurato una nuova creazione che riprende l'obiettivo originario. Nella creazione originaria noi abbiamo due racconti della creazione all'inizio della Genesi, e in uno di questi due racconti è molto evidente la corresponsabilità dell'uomo e della donna, perché Dio prima crea l'uomo e la donna e poi dice a loro: bene, sistemate il giardino. L'altro racconto invece è quello classico del primo, secondo, terzo giorno, no? Sono due visioni complementari, però è interessante il secondo racconto della creazione, perché l'uomo viene messo al centro di un giardino che è ancora confuso e viene detto all'uomo: bene, lavoralo, sei tu che sei corresponsabile insieme a Dio di quello che nascerà dalla creazione, di quello che deve essere composto, della bellezza del quadro delle origini. Dio non fa tutto da solo. È anche il principio, se vogliamo, del ministero pubblico di Gesù. Gesù inizia a predicare ma non lo fa da solo. La prima cosa che fa è chiamare i discepoli. Comincia con 4, poi diventano 12, che sono il segno del coinvolgimento di tutte le 12 tribù di Israele. Dio non fa niente da solo. Ed è interessante anche il verbo che viene utilizzato per sottolineare questo coinvolgimento dei 12. Nel testo viene detto: riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. Il verbo utilizzato per indicare questo scendere dello Spirito, scendere su di voi, è un verbo, eipercomai, che viene utilizzato nel Nuovo Testamento solo in 3 passaggi. In Luca al capitolo 1 per indicare la discesa dello Spirito Santo su Maria. In Atti 19 per riferire la Pentecoste dei pagani di Efeso. E in questo brano. Pensate, nell'Antico Testamento viene utilizzato la stessa costruzione verbale per richiamare la discesa dello Spirito sui 70 anziani che devono aiutare Mosè, o per indicare la discesa dello Spirito sul germoglio di Jesse in Isaia 11. Cioè sono passaggi chiave delle scritture in cui questo verbo indica il pieno protagonista pieno protagonismo delle persone coinvolte. Gesù non ci vuole affacciati alla finestra a guardare quello che succede nel mondo, a guardare quello che succede nella nostra comunità cristiana, nella Chiesa. Ci vuole protagonisti. Ed è la prima correzione che fa. L'ultimo testamento che lui dà prima di salire al cielo è proprio questo, quello di dire: imparate a non dire tu, ma dire noi, cioè a investirvi in prima persona della responsabilità del regno. Però questo era solo il secondo errore. Vi ho detto che in questo testo ci sono 4 errori. Quindi il primo errore era il tempo, quindi non è solo tempo, ma è un tempo di grazia. Il secondo errore è il tu, nel quale tu, Terzo errore è ricostruirai il regno, è il concetto di regno, perché quando i 12, gli 11 in questo caso fanno la domanda a Gesù, loro hanno in mente un regno ben preciso, il regno di Davide. Loro pensano che Gesù non solo ha sconfitto la morte, ma ristabilirà l'antico regno davidico-salomonico, cioè restituirà al popolo di Israele quel ruolo di primato tra tutti i popoli della terra. E Gesù li corregge, perché dice: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni. Al concetto di regno deve essere sostituito, o comunque il concetto di regno deve essere completato dal concetto di testimonianza. Il vero regno nasce dalla testimonianza di quello che Gesù ha insegnato durante il ministero pubblico, di quella logica, senza dimenticare che testimonianza, il termine testimonianza, la radice del testimoniare nel vocabolario greco si regge su un termine che evoca ben altro. La testimonianza in greco è la martiria, i testimoni sono i martires, i martiri, quindi la vera testimonianza arriva al dono della vita. Il vero regno è qui. Come Gesù manifesta la sua regalità massima nel momento della passione e della morte, così i discepoli non solo non devono delegare tutto a Gesù aspettando sul davanzale della finestra di casa, ma devono rimboccarsi le maniche fino ad arrivare al dono pieno di sé. E allora capite che qui c'è una bella rivoluzione in atto nella risposta di Gesù. E poi arriviamo al quarto errore. I discepoli chiedono al Signore qual è il tempo per ricostruire il regno per Israele, e Gesù risponde: testimoni, voi sarete testimoni, martires, dove? A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. E allora capite bene la correzione che Gesù fa. Parte da un orizzonte geografico e lo allarga. Diciamo anche che ne sbriciola i confini, perché praticamente da Gerusalemme allarga la visuale dei discepoli alla Giudea, alla Samaria, fino ai confini della terra. Vi dicevo all'inizio che nei primi versetti degli Atti degli Apostoli c'è tutta l'opera. Ecco, questo è l'indice, questo versetto è l'indice, perché effettivamente noi potremmo suddividere il racconto degli Atti degli Apostoli in quattro grandi parti. La prima parte è dedicata a Gerusalemme, la seconda si estende alla Giudea, la terza è dedicata alla Samaria e vedrà come protagonista il famoso diacono Filippo, la quarta giunge fino ai confini della terra con l'apostolato dell'apostolo Paolo. Quindi c'è veramente un orizzonte enorme, c'è un orizzonte enorme. E qui i discepoli devono cambiare prospettiva, perché la loro prospettiva è ancora ferma a Israele. E qui si aspetterebbe che Gesù tenga ancora un lungo insegnamento ai suoi, e invece scompare, sale al cielo e la responsabilità è immediatamente lasciata ai discepoli. I discepoli restano con gli occhi al cielo e la bocca aperta, fissi, e il primo incarico che ricevono dai due angeli mandati verso di voi è: ma cosa state lì impalati? Coraggio, adesso è il tempo di rimboccarvi le maniche e di mettervi in cammino. E vedremo la volta prossima, questo mettersi in cammino si attua subito con una fotografia interessantissima sulla prima comunità. Ecco, cari ascoltatori, questo era un pochino quello che desideravo condividere con voi. I primi 11 versetti degli Atti degli Apostoli ci comunicano già dei messaggi molto significativi. Abbiamo visto, ci dicono, quei tre pilastri su cui si regge l'esperienza della prima comunità cristiana, quindi il primo pilastro era l'esperienza del mistero pasquale, il secondo pilastro l'esperienza dei 40 giorni, cioè un cammino continuo di conversione, il terzo pilastro era la logica del regno. E poi abbiamo visto questo dialogo che avviene attorno alla mensa, luogo di rivelazione per eccellenza, dove la domanda dei discepoli contiene quei quattro errori che vengono subito corretti da Gesù. Il primo errore era rischiare di avere una visione del tempo solo cronologica e non di cogliere l'azione della grazia. Il secondo errore è di delegare tutto a Dio, non lasciandosi coinvolgere come protagonisti. Il terzo errore era restare fermi a un regno umano e non invece fare il passaggio sulla testimonianza, sulla martiria, su quella corresponsabilità che costa. E il terzo, restare fermi ad orizzonti troppo stretti, quelli di Israele, e non aprirli invece da Gerusalemme alla Giudea, alla Samaria, fino ai confini della terra, questa sorta di programma, di indice, di sommario del racconto degli Atti degli Apostoli. Ecco, lasciamo ora un altro spazio musicale. In questo spazio musicale, cari ascoltatori, vi chiedo di cogliere l'occasione per i vostri interventi, le vostre domande. Cercate di essere il più attinenti possibili al tema, di essere brevi, ma di non lasciarci mancare questa parte della trasmissione dove il vero tesoro viene offerto da voi, dei vostri interrogativi, che ci permettono di scavare ulteriormente il testo. Lasciamo lo stacco musicale. Sì, pronto. Buonasera padre, sono Rosanna da Padova. Mi dica Rosanna. Ho seguito la sua catechesi, volevo, è solo una cosa che mi sono chiesta, che di questo nuovo regno di Gesù, della nuova venuta di Gesù, della seconda venuta di Gesù. Io non so se ho interpretato male la cosa, anche riferendo anche nel Vangelo di ieri, come diceva lei, però io sono convinta che quando una persona fa un certo cammino di fede, Gesù lo sente vicino, e qua non c'è dubbio, io non ho il dubbio perché io me lo sento vicino. Ma questa venuta che io non ho capito, è lui che scende carne e ossa? O solo lo dobbiamo vedere spiritualmente o lo dobbiamo vedere in altri fratelli? Perché lui ha detto, mi riconoscerete. Ma allora lo aspettiamo in carne e ossa? Dobbiamo aspettare quello che sarà, perché i tempi sono i tempi di Dio. Però comunque da capire, volevo capire questo, padre. Ecco, tutto qui. Allora, ringrazio la nostra ascoltatrice di Padova perché ci permette di toccare un aspetto importante, anche se ovviamente nella mia risposta bisogna sempre tenere presente la cornice di tutto, cioè la fede ha sempre una dimensione che è avvolta nel mistero, quindi a domande di questo genere noi non possiamo dare delle risposte puntuali sotto tutti gli aspetti, perché c'è una dimensione che resta avvolta nel mistero, è il mistero dell'oltre. Però su una cosa è chiara, se noi ascoltiamo proprio questi primi versetti degli Atti degli Apostoli, al versetto 3, ci viene detto che Gesù si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro. Ecco, quando viene utilizzato il verbo dell'apparizione di Gesù, tenete presente che qui Gesù che appare è il Gesù risorto e gli angeli che al termine del brano che abbiamo letto si rivolgono ai discepoli, gli dicono loro, no? Questo Gesù che è di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo, eh? Ora, questi discepoli, l'esperienza che avevano del risorto è un'esperienza legata ad un verbo ben preciso. Il verbo utilizzato da Luca è il verbo optaumai, è questo verbo greco, che non è un verbo secondario da prendere così, come se fosse un verbo tra tanti. Questo verbo indica la tangibilità di colui che è visibile, cioè è una persona che è visibile in carne ed ossa, non solo in spirito. E tra l'altro questa sottolineatura è una sottolineatura che ci viene anche dagli altri evangelisti. Pensate ad esempio all'Evangelista Giovanni. L'Evangelista Giovanni, che è molto sensibile al discorso, a una riflessione teologica sul dato storico di Gesù, tiene a sottolineare che quel Gesù che chiama i discepoli dopo la sua risurrezione alla riva del lago, è un Gesù che mangia del pesce arrostito, eh? È un Gesù che mangia. Quindi è un Gesù che non è solo spirito, ha una corporeità trasfigurata che sicuramente non risponde a quella che è il nostro criterio di definire questo. Ecco, questo è importante per dire il tipo di ritorno di Gesù, eh? Ovviamente tutto questo discorso è avvolto in quella cornice iniziale, cioè non ci è permesso definire nel dettaglio tutti gli elementi, perché comunque si tratta di entrare in un orizzonte che è altro, in qualcosa che va oltre l'esistenza umana e va oltre la fisicità e la temporalità che caratterizza il nostro qui ed ora in questo momento. Però è significativo il messaggio che appunto questi due uomini in bianche vesti danno ai discepoli: come l'avete visto andare, così lo vedrete tornare da voi. Grazie Rosanna per il tuo interrogativo. Pronto? Sì, buonasera padre, sono Pier Giorgio di Viterbo. Sì, Volevo Pier capire un Giorgio. attimo, volevo capire un attimo questo fatto che lei diceva, che Gesù dice agli apostoli, mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra, e quindi chiaramente anche ai pagani. E perché poi dopo c'è stata la diatriba con San Paolo, che allora ai tempi di Gesù non era ancora apostolo, lo diventerà poi. che voleva testimoniare anche ai pagani, mentre invece gli altri apostoli non volevano. Allora forse non hanno ben capito ancora, anche dopo la discesa dello Spirito Santo, questa cosa che Gesù aveva detto loro, cioè di testimoniarlo fino agli estremi confini della terra e quindi a tutti, pagani compresi ovviamente. Grazie Padre. Grazie mille Pier Giorgio, perché effettivamente la tua domanda tocca un tema chiave che caratterizza la comunità delle origini, caratterizza il racconto degli Atti degli Apostoli. Allora, tu mi permetti di toccare un elemento introduttivo fondamentale, perché gli Atti degli Apostoli sono scritti non concomitanza con gli atti, con gli episodi che narra, sono scritti a distanza di tempo, quindi si pensa così a livello di studi che gli Atti degli Apostoli siano scritti attorno all'80-85 dopo Cristo. Gli episodi che vengono raccontati invece risalgono indietro nel tempo, dal 30 dopo Cristo in poi. Più o meno l'arco di tempo narrato dagli Atti degli Apostoli è un arco di un trentennio, dal 30 al 64-67 massimo dopo Cristo, è il periodo di cui ci narra la storia gli Atti degli Apostoli. Quindi quello che viene narrato negli Atti degli Apostoli è frutto di una riflessione a posteriori. Questo ci fa capire perché è importante tenere sempre presenti quelle tre fonti di cui vi dicevo all'inizio, no? Perché qui noi abbiamo la prospettiva di uno storico, è interessante vedere la prospettiva di chi ha vissuto in diretta queste cose e ce l'abbiamo attraverso le lettere di Paolo da lei menzionate, caro Pier Giorgio. Quindi cosa fa Luca? Luca sa che cosa è successo nella storia. Sa quali sono stati i punti scottanti della formazione della prima comunità cristiana e allora nel suo racconto li anticipa fin dall'inizio. Luca sa che per la comunità cristiana a cui lui scrive c'è ancora un punto di snodo che è ancora un po' una ferita per certi aspetti della comunità, cioè c'è qualcuno nella sua comunità a cui questa apertura ai pagani non è che vada tanto giù. Certo, hanno capito che lo Spirito andava in quella direzione, hanno capito che Gesù andava in quella direzione, ma qualcuno questa cosa fa ancora fatica. E allora ecco che lui, fin dall'inizio della sua opera, lo mette come il testamento fondamentale che Gesù ha lasciato ai suoi. Gesù lascia ai suoi come testamento questa apertura, cioè aprire la comunità da Gerusalemme, alla Giudea, alla Samaria, fino ai confini della terra, fino ai pagani, e di questo messaggio San Paolo sarà un pochino il depositario. Non solo, Luca è anche consapevole che quando lui scrive c'è tutta un'eredità del cristianesimo delle origini che rischia di essere buttata via, ed è l'eredità di Paolo. Quando Luca scrive nell'85 dopo Cristo, guardate che molte comunità cristiane dell'epoca stavano rifiutando l'apostolo delle genti. Stavano rifiutando lui, stavano rifiutando i suoi scritti, stavano rifiutando la sua concezione. Perché? Perché all'interno delle comunità si erano inserite delle correnti che screditavano l'apostolo, cercando di far riconfluire il cristianesimo delle origini negli orizzonti ben precisi dell'ebraismo. Ecco allora l'opera di Luca non è solo io vi metto a disposizione qualcosa in modo che sappiate come sono andate le cose, no. L'opera di Luca è un'opera veramente suggerita dallo Spirito per mantenere l'identità cristiana nei corretti binari, altrimenti questa identità cristiana avrebbe rischiato grosso. Quindi lei, Pier Giorgio, ha proprio colto uno degli aspetti nodali che emerge proprio fin dalla pagina di apertura degli Atti degli Apostoli. Luca ci sta dicendo quelli che erano gli snodi fondamentali e poi noi li ritroveremo nella storia di Paolo. Andiamo a vedere, andate a leggere le lettere di Paolo, scritte proprio in concomitanza con gli eventi di questi anni raccontati dagli Atti degli Apostoli, e vedete che nella lettera ai Corinzi, nella lettera ai Galati, nella lettera ai Romani, il tema ricorrente è sempre quello, aprirsi ai pagani oppure no. Andiamo a leggere anche i Vangeli, abbiamo appena terminato la lettura continua del Vangelo di Marco, Sottolineavo sempre le famose tre traversate del lago di Tiberiade. Come mai Marco ha raccontato per tre volte queste tre traversate? Perché? Ma perché dietro il passaggio da una riva all'altra c'è il mistero dell'apertura al pagano che abita la sponda orientale del lago di Tiberiade e che rappresentava la grande sfida, la grande fatica della prima comunità delle origini. Quindi qui si nasconde proprio uno snodo dell'identità cristiana e un rischio che è anche il nostro rischio, quello di non fare lo sforzo continuo dell'apertura all'altro, di quel andare verso le periferie dell'esistenza tanto sottolineate dal Magistero di Papa Francesco. Grazie quindi Pier Giorgio per questo interrogativo. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Anna Maria da Cagliari. Bene, Anna Maria. Ringrazio il Signore perché lei ha spiegato talmente bene queste particolarità, diciamo, io leggo con tutto il cuore il Vangelo, la Bibbia, insomma, già da molti anni, e quindi questo cioè come l'ha spiegato lei, io non l'avevo capito sinceramente, quindi ringrazio il Signore Gesù che lei mi ha fatto capire queste cose particolari che ha detto il tu al voi, cioè, ecco, in base a questo mi è venuta questa domanda. Adesso io sono una casalinga, prima lavoravo, adesso sono in pensione, sono in casalinga, diciamo, e come possiamo anche noi, piccole donne, cioè una casalinga che socialmente non è che sia, diciamo, sì, conta, ma insomma, ecco, come possiamo fare la volontà del Signore Gesù che ci dice a tutti, a ciascuno di noi, a trasmettere quello che il Signore ha messo nel nostro cuore, la fede, il nostro credo, la nostra fede, come, cioè, insomma, se mi può aiutare un po' di più, certo il Signore ci ha già insegnato, però voglio dire, se lei, ecco, questa domanda che mi sono posta, come possiamo contribuire anche noi, semplici persone? Io. Certo, certo Anna Maria, grazie. Siamo passati da Padova a Viterbo, da Viterbo in Sardegna. Quindi questo intervento di Anna Maria è un intervento che ci permette di fissare l'attenzione sul luogo che viene indicato dagli Atti degli Apostoli come i luoghi in cui discernere la volontà di Dio, nella semplicità. E prendo spunto proprio dalla semplicità di Anna Maria per far riflettere proprio su quello stare a mensa. Dicevo che al versetto 4 di questo capitolo primo, capitolo introduttivo degli Atti degli Apostoli, questa scena, che è la scena che mette in luce la volontà di Dio per gli apostoli, avviene mentre si trovava a tavola con essi. Cioè, noi dobbiamo proprio riscoprire, rivalorizzare il mistero eucaristico. Non c'è niente da fare. I Vangeli, gli Atti, gli scritti del Nuovo Testamento insistono più volte nel dire che è lì che la comunità cristiana prende forma, è lì che la comunità cristiana fa discernimento, è lì che la comunità cristiana trova la sua identità, attorno alla mensa. E attorno alla mensa, noi lo sappiamo, la comunità cristiana vive il mistero eucaristico, quindi fa memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù, e ascolta la parola, che è il luogo che permette di far memoria. Sono questi due spazi che diventano il luogo del discernimento della volontà di Dio. C'è poi un terzo elemento attorno alla mensa, la comunità, cioè attorno alla mensa si ritrova chi? La casa, la chiesa domestica. Non dimentichiamo che il cristianesimo delle origini non trova il suo luogo di riferimento in un tempio, in una sinagoga. Il suo luogo di riferimento è la casa e la mensa, che sono luoghi ordinari, luoghi feriali potremmo dire. Il luogo di culto è la casa, quindi il luogo delle relazioni quotidiane. Del resto proviamo a pensare, una mamma, un papà, dov'è che educano i loro figli? Educano i loro figli in casa, educano i loro figli intavolando con loro dei discorsi che si fanno in casa, spesso anche attorno alla tavola, attorno alla mensa. Quello è il luogo per eccellenza e quello resta anche il luogo in cui il Signore ci spiega se stessi, perché è il luogo dell'intimità. Senza intimità è difficile che il Signore possa spiegarci quella che è la sua volontà. Quindi mi sembra che una delle possibili risposte che emerge dai testi sia proprio questa qua, quella del valore della mensa intesa proprio come un'evocazione dell'Eucaristia. Grazie mille Anna Maria per la sua domanda. Pronto? Buonasera. Pronto? Padre. Buonasera, come parlo? Buonasera. Mi chiamo Mario, dalla provincia di Crotone. Bene Mario. Avrei voluto fare la stessa domanda della prima ascoltatrice, sì. Però adesso c'è un'altra. Questo mistero di cui lei stava parlando prima, è una verità che poi scoppia dentro di noi, che è intima, ma nello stesso tempo, modo, anche universale, che poi a volte diventa anche un segreto, dato che non può essere compresa da tutti, e niente, questo volevo sapere. Può ripeterla, perché non ho capito cosa desidera chiedere, se può spiegarmi questo meglio. Questo mistero di cui lei stava parlando, sì, prima, è una verità che scoppia dentro di noi, che esce fuori dal... è tutto un processo che si svolge dentro di noi, che poi ci ricolleghiamo alla verità pura, che poi a volte non può essere condivisa con gli altri proprio perché non sono pronti, non riescono a comprenderla. Ho capito. Grazie Mario per questo tuo interrogativo. Discernere la volontà di Dio non è una cosa semplice, non è qualcosa che avviene dall'oggi al domani, no? Avremo modo di notarlo questo soprattutto percorrendo le esperienze dei protagonisti degli Atti degli Apostoli. A me piace sempre passare dalle esperienze concrete dei personaggi delle pagine del Nuovo Testamento. Negli Atti degli Apostoli incontreremo Pietro, incontreremo Filippo, incontreremo Stefano, incontreremo anche alcune figure avverse ai primi apostoli. È interessante notare come la volontà di Dio si fa strada ad agio, non in modo immediato, e soprattutto non dà mai la volontà di Dio la presunzione, ecco il concetto è questo, la presunzione alle persone coinvolte di avere la verità in tasca. La volontà di Dio è qualcosa che ogni giorno si illumina un pochino di più e si illumina in modo diverso. Pensiamo ad esempio alla pagina di apertura alla Samaria, lo vedremo quando commenteremo i capitoli 7, 8. All'inizio Pietro si reca in Samaria per valutare quello che sta succedendo in quella comunità. Vi si reca anche con una certa resistenza, sembra trasparire dal testo, e alla fine invece deve riconoscere che lì è lo Spirito che è in azione e si mette subito in atteggiamento di chi deve imparare. Così succede al capitolo 10, quando deve andare da Cornelio in una casa pagana. Pietro resiste, Pietro prende tempo, poi però davanti ai gesti, davanti alle parole, davanti a quello che succede in quella casa pagana, è costretto ad arrendersi a un'evidenza, a un disegno che è più grande di lui, che è quello dello Spirito. Però ecco, quello che è interessante è che Pietro non è illuminato da un momento all'altro, ugualmente per Paolo. Paolo, se noi andiamo a leggere le sue lettere, no, che sono preziose come documento della storia delle origini, notiamo che quando Paolo insegna il discorso sulla fine dei tempi, cambia versione 3 volte nelle sue lettere. Nelle lettere, andate a leggere le lettere ai Tessalonicesi, in queste lettere 3 volte cambia visione delle cose. Inizialmente pensa che il Signore debba arrivare da un momento all'altro, per cui dice chi lavora e faccia come se non lavora, chi prende moglie come se non prendesse moglie, perché è imminente il giorno del Signore. Subito dopo si rende conto che questo suo modo di insegnare le cose ha portato a delle controindicazioni, perché c'è qualcuno che addirittura si rifiuta di lavorare perché dice tanto il Signore arriverà da un momento all'altro, a che serve lavorare? Ecco allora che Paolo deve intervenire e dire no, il Signore non deve arrivare da un momento all'altro, dovete rimboccarvi le maniche, renderlo presente voi. Poi c'è un Paolo che si rende conto che effettivamente la parusia non è così imminente, che i tempi possono essere ancora molto lunghi e quindi dà ulteriori indicazioni alla comunità cristiana per articolarsi in modo da testimoniare la presenza del Cristo qui ed ora. Cioè, questo per dire cosa? Per dire che neanche gli apostoli, neanche per gli apostoli il discernimento della volontà di Dio è immediato. Ci sono degli indizi che servono per discernere questa volontà di Dio e gli indizi in genere sono, il primo, gli spazi della preghiera, gli spazi della memoria e sono quella tavola eucaristica che vi ho detto prima. Il secondo è la comunità cristiana, quindi il fatto di trovarsi insieme ad altri e di confrontarsi con gli altri, la condivisione è garanzia di autenticità, perché nel momento in cui io condivido qualcosa della mia fede, mi espongo anche all'interrogativo dell'altro, alla correzione dell'altro e quindi questo può portare a dei cambiamenti anche nel mio modo di vedere le cose. Terzo indizio di discernimento sono i fatti, gli eventi e gli stessi apostoli, sia Pietro che Paolo, imparano dagli incidenti di percorso. Imparano dei fallimenti, imparano addirittura da coloro che rifiutano il loro annuncio, si rendono conto che a volte loro stessi hanno sbagliato, imparano dalle malattie stesse. Paolo passerà in Macedonia e fonderà la prima comunità d'Europa subito dopo un'esperienza di malattia che l'ha obbligato a stare fermo in un posto dove lui non voleva stare. Quindi sono tutti questi elementi che costituiscono il criterio del discernimento, non è qualcosa di automatico. Quindi la volontà di Dio va illuminandosi passo dopo passo attraverso tutti questi elementi. E gli Atti degli Apostoli ci aiutano proprio a vedere all'opera questo dinamismo che vediamo all'opera anche nelle nostre comunità cristiane oggi. Grazie Mario. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Mi chiamo Maria, chiamo dalla Sardegna. Bene, un'altra sarda, benissimo, mi dica. Sì, penso che sia attinente all'argomento trattato. Io volevo sapere qualcosa sull'effusione dello Spirito Santo. Allora, un suo consiglio. Nella nostra parrocchia sta venendo un gruppo chiamato Gesù Ama. Conosce questo movimento? No, non lo conosco. Non l'hai mai sentito? È un movimento carismatico cattolico? Sì. Ecco, allora ci hanno proposto un itinerario che dura circa 3 mesi. Di preghiera, di preparazione per un'effusione dello Spirito Santo. Siccome ho sentito dire non lasciatevi imporre le mani da nessuno a meno che non sia un sacerdote, ecco, io vorrei sapere da lei, chiedere a lei cioè qualcosa di più concreto su questa cosa qua. Certo. Allora, la ringrazio Maria, lei tocca un tema delicato che in parte ha attinenza con gli Atti degli Apostoli, in parte un pochino sfugge dal tema degli Atti degli Apostoli. Il primo aspetto, direi, guardiamo con positività quello che lei sta presentando, cioè lei sta parlando di un movimento che sembra delinearsi all'interno del rinnovamento carismatico, da quello che ho capito, in genere sono loro che hanno queste denominazioni, Gesù ama, Gesù guarisce, sono in genere i nomi, no, che vengono dati da queste diverse realtà del rinnovamento carismatico. Ecco, il rinnovamento carismatico è segno di una vitalità dello spirito che sorprende la Chiesa e che sorprende a volte anche la fede di chi magari si trova più sicuro con piccole certezze, alcuni riti ben precisi, alcune modalità di vivere la fede. Il rinnovamento carismatico irrompe come è tipico dello Spirito Santo e questo merita un atteggiamento di fiducia e di attenzione. Ecco, lo spirito, gli Atti degli Apostoli sono caratterizzati da questa sorpresa continua dello Spirito Santo e lo noteremo, i veri protagonisti degli Atti degli Apostoli non sono Pietro, Paolo, Filippo, Giacomo, assolutamente no. I veri protagonisti sono due per Luca, lo Spirito Santo e la parola di Dio, è la parola di Dio che genera la fede, è lo Spirito Santo che apre le porte e i veri soggetti delle svolte ecclesiali non sono gli apostoli, sono dei cristiani anonimi e questo è interessante perché ci fa capire la logica che Dio sceglie per portare a compimento l'identità delle origini. Secondo aspetto però, accanto a questo aspetto positivo, è un giusto atteggiamento di prudenza, soprattutto quando alcune realtà non sono conosciute. Ecco, io non conosco questa comunità di cui lei mi parla, però la prima cosa da valutare e da verificare è sempre un pochino il percorso che viene suggerito, i responsabili di questo percorso chi sono, il modo in cui questo movimento si integra con il cammino della comunità ecclesiale locale, perché quando qualcosa viene dallo Spirito non è qualcosa che suscita divisioni, è qualcosa che si integra bene con il cammino pastorale locale. In genere queste realtà hanno un riconoscimento o del vescovo o del parroco, sono accreditate prima di introdursi all'interno di una realtà parrocchiale, quindi le prime cose da chiedere sono queste. Poi il tipo di percorso che fanno, in genere anche questo è un percorso formativo. Ecco, associare i 3 mesi alla certezza di avere l'effusione dello Spirito Santo, non lo so, io sarei un pochino prudente, perché per esperienza degli Atti degli Apostoli, non vi farei basare sulla mia esperienza, ma per esperienza biblica non mi sembra che nella Bibbia ci siano dei programmi precisi di mesi e di anni dopo i quali scende lo Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo sorprende persino Pietro quando si trova a Cesarea da Cornelio, perché gli interrompe il discorso che aveva appena iniziato a fare, quindi attenzione ecco a queste logiche del se faccio così avviene questo dono, se faccio così arriva quest'altro. I doni di Dio sono sempre un pochino imprevedibili e superano una certa logica prettamente umana che noi potremmo impostare. Quindi quello che dico è non partiamo prevenuti, quindi ringraziamo prima di tutto per la realtà dei movimenti ecclesiali che sono veramente segno dello spirito e sono segno di una vitalità ecclesiale. Nel momento in cui siamo invitati o ci accostiamo a qualcosa di nuovo, informiamoci prima di accostarci e i primi a cui dobbiamo informarci sono i pastori delle nostre comunità, il parroco, il vescovo, che sono sicuramente in grado di darci una parola precisa su quel movimento, quella realtà a cui la parrocchia ha aperto le porte. Grazie Maria per questo tuo intervento. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Mi dica. Allora, buonasera. Il mio secondo nome è Maria e anch'io chiamo dalla Sardegna. Benissimo. Allora, innanzitutto, siccome ho sentito quella signora che diceva, io ho qualche informazione a proposito di un gruppo che si chiama Gesuama, che aveva almeno come iniziale Coinonia di Giovanni Battista, e quindi siccome in Sardegna c'è il rinnovamento dello spirito italiano che ha una responsabile diocesana, ha fatto bene lei a dirgli che si informi su chi sono queste persone, da dove vengono, qual è la loro storia, perché ci sono stati dei problemi. Adesso io non so se posso citare un libro dove si parla di questa coinonia di Giovanni Battista, posso farlo? Lo faccio, per me non è un problema, l'importante è che sia sintetica per lasciare spazio anche agli altri, ma va bene. Sì, no, devo solo dirle questo e basta, poi le devo chiedere una cosa personale io. Dica. Allora, è il libro di Vigorelli, Nuovi Miracoli. Sì. E lì sulla coinonia di Giovanni Battista, che si fa chiamare in certi momenti Gesuana, troverà delle preziose informazioni. Poi la domanda che volevo farle io personalmente è questa. La lezione divina è la lettura della parola di Dio? È considerata, può essere considerata lezione divina la lettura della parola del Papa? Perché in vari incontri guidati da un sacerdote, quest'anno al posto della lettura divina della parola di Dio, mi scrive la parola del Papa. Grazie mille Maria per il tuo intervento, prima di tutto perché ci ha permesso di completare, no, quello che dicevamo nell'interrogativo precedente. E poi per questa seconda domanda. Allora, che cos'è la lezione divina? Qua voi toccate un argomento a cui io tengo molto, no? Perché la lezione divina è il nutrimento del cristiano, però dobbiamo stare attenti, perché a volte noi chiamiamo lezione divina quello che lezione divina non è. Mi spiego, spesso nelle nostre realtà noi pensiamo che la lezione divina sia uno spazio di tempo di mezz'ora o di un'ora che si divide in lezione, meditazio, contemplatio, orazio, cioè nei diversi momenti, per cui sono 15 minuti di una cosa, 10 minuti di un'altra, 10 minuti di un'altra cosa. Se noi andiamo a vedere l'esperienza originale della lezione divina, la lezione divina non è questo. La lezione divina è permettere alla parola di Dio di accompagnare, bucare la nostra giornata, passando attraverso le diverse fasi, la fase della lettura ovviamente e dell'ascolto, la fase della meditazione, la fase della contemplazione e la fase della preghiera. Ma questo non può essere ridotto in uno spazio predeterminato, preconfezionato. Questo può essere uno strumento di aiuto, però una lezione divina io non la posso fare per 100 persone dicendo a tutti, mettendo tutti nello stesso pacchetto, 15 minuti, 15 minuti, 15 minuti, 15 minuti, no, perché ognuno ha i suoi ritmi, ognuno ha la sua modalità. E allora, questi momenti di preghiera che in genere vengono guidati sono delle lezioni, punto. Lezione nel senso che sono dei momenti di ascolto, di lettura, di meditazione della parola di Dio, punto. Secondo aspetto che la nostra ascoltatrice ci aiuta a mettere in evidenza. Al centro di una lezione divina sta la parola di Dio, punto. La parola di Dio deve rimanere al centro. Gli altri commenti servono per meditare, siano commenti dei padri della Chiesa, siano commenti di teologi, commenti di chi guida la lezione, commenti del Santo Padre, servono per, come dire, meditare su quella parola, ma la parola deve rimanere al centro. In un incontro di lezione divina io non posso dedicare 2 minuti alla parola di Dio e fare 20 minuti di predica, ma quella non è una lezione divina, quella è un momento in cui si ascolta una conferenza. Lezione divina è la parola che deve essere al centro, è la parola che deve tornare, come dire, perché possa penetrare nell'intimo dei cuori. Quindi io invito sempre, stiamo attenti, o perlomeno chiamiamo le cose con il loro nome, cioè un conto è lezione divina, un conto è un momento di meditazione della parola, un conto è un momento di lettura, è un momento di approfondimento, però non confondiamo le cose e soprattutto andiamo sempre alle origini, andiamo sempre alle basi, quando queste esperienze sono nate. La lezione divina nasce in contesti ben precisi e ha delle connotazioni ben precise, che non sono ridotte nello spazio di un'ora, ma accompagnano l'esperienza di una giornata del credente. Ecco, su questo tema ci sono ovviamente anche delle pubblicazioni molto significative, molto, molto belle. Tra i testi che a me piacciono di più ce n'è uno di Amedeo Cencini, La vita al ritmo della parola, dove lui proprio insegna a trasformare la parola di Dio come qualcosa che scandisce la giornata, all'interno della giornata la settimana, all'interno della settimana il mese, cioè a fare in modo che veramente la parola di Dio possa essere qualcosa che accompagna il cuore e la quotidianità della nostra esperienza di credenti. Grazie signora Maria per la sua domanda. Cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato, permettetemi di ringraziare quelli che sono intervenuti, che hanno arricchito la nostra trasmissione, quindi Rosanna da Padova, Pier Giorgio da Viterbo, Anna Maria da Cagliari, Mario da Crotone e le due Marie della Sardegna. Ecco, concludo facendo a tutti voi un augurio, l'augurio che la parola di Dio possa veramente accompagnarci e accompagnarvi in questo mese. E permettetemi al termine di questa trasmissione di fare un augurio particolare. Oggi, sullo sfondo della dedicazione delle Basiliche di Pietro e Paolo, i miei genitori compiono 52 anni di matrimonio. Ecco, se oggi sono qui a spezzare la parola di Dio, è perché due genitori, un papà e una mamma, mi hanno dato la vita, no? E il momento del matrimonio è il momento in cui questo dono viene regalato anche a coloro che nasceranno da quell'unione. Quindi ne approfitto per fare un grande augurio a loro e un grande augurio a tutti quegli sposi che, nonostante le fatiche e i sacrifici, sono riusciti a non venire meno nell'amore e continuano a donare la loro vita per i loro figli. Un caro saluto, una benedizione e un augurio a tutti voi ascoltatori. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.